Maledetti, maledetti, via di qua, a piede qua, dei doppiasi, discreta, ma quasi con quel chiasso importuno tutto quanto il quartiere han risvegliato, al fin sono partiti. La, la, la, la, la, la, la, la. Chi è mai quest'importuno? Lasciamolo passar. Sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna. O già l'alba appare e amor non si vergogna.